4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Ancora una volta buonasera, bentornati amanti dei motori, questo è il programma di Radio 24 in collaborazione ormai da 9 anni con gli amici di Quattro Ruote che si dedica ai motori delle auto, delle moto, ma ancora tante novità. Puntata ricca, premieremo questa sera sul bancone della nostra prova la serie 5 GT Gran Turismo, una BMW molto particolare, ce ne parleranno Gianni Oliosi di BMW Italia e Carlo Di Giusto di Quattro Ruote. Poi passeremo a conoscere lo stato dell'arte dell'auto elettrica con Emilio Brambilla di Quattro Ruote e parleremo di Formula 1. Jenson Button, l'inglese su Brown GP, ha vinto il campionato del mondo domenica scorsa. Ci sono due saloni che chiuderanno questa trasmissione: Tokyo per le auto, in realtà anche per le moto, con Roberto Lovecchio al telefono, e poi il salone EICMA di Milano della moto dal 12 al 15 novembre. Per cui puntata ricchissima, vi ricordo il nostro indirizzo radio24.it nella sezione programmi, Quattro Ruote dintorni è il nostro, e poi la nostra email 4ruote@radio24.it. Buonasera a Gianni Oliosi, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Oliosi torna, ormai è stato ospite tante volte nella nostra trasmissione, è il direttore di tutto il settore comunicazione del gruppo BMW Italia, quindi non solo BMW, anche Mini e gli altri brand. Oggi parliamo con te, Gianni, di serie 5 GT. Dicevo prima, un'auto particolare, perché? Innanzitutto bisogna sottolineare che BMW ha sempre pensato in un modo più ampio rispetto alle categorie tradizionali o alla tradizione automobile, ha sempre cercato non solo di dare delle risposte su misura alle esigenze degli automobilisti, ma addirittura di anticipare le tendenze e creare dei sogni per gli automobilisti. Nasce da questa filosofia la serie 5 Gran Turismo, un modello innovativo che unisce doti tipiche di una berlina di prestigio, di un'elegante coupé sportiva e anche di uno spazioso sport utility vehicle. È una vettura versatile, quindi lussuosa, che vuole reinterpretare la classe superiore, ma soprattutto vuole restituire ai viaggi il loro vero valore, quindi un bene prezioso come il tempo che si passa in un viaggio. Insomma, questo sicuramente è una descrizione molto efficace per farci capire la filosofia che c'è di base. Visto tutto questo, è nata non la serie 5 che già esisteva, è un grande successo comunque globale, ma la GT, Gran Turismo, sta per comodità di viaggio dunque? Sì, proprio fa proprio onore al suo nome, Gran Turismo. Nell'ambiente raffinato dell'abitacolo si ha la sensazione di dimenticare di sedersi in un'automobile, specialmente se l'auto dispone del tettuccio panoramico, si percepisce tutto il fascino della spaziosità e della grandiosità dell'ambiente circostante, accompagnati dal solito e inconfondibile piacere di guida che sa offrire soltanto BMW. Per quanto riguarda il mercato italiano, invece, quanto è importante questa vettura e a chi si rivolge, dottor Oliosi? Più che parlare di quantità, vogliamo di nuovo aprire una nuova nicchia nel mercato, come abbiamo fatto già parecchie volte e come si fa proprio in questa nuova stagione BMW. Devo ricordare che nello stesso weekend di lancio della 5 Gran Turismo lanciamo anche la X1, quindi un sport activity vehicle compatto nel segmento della serie 1, e fra poco anche la trazione integrale sulla serie 7. Ma tornando alla serie 5, diciamo che unisce la lussuosità di una berlina e la sua rappresentatività, ma anche le caratteristiche sportive dinamiche e di eleganza, appunto, dinamica della coupé, ma anche il modo di guidare, la seduta un po' più alta delle tradizionali berline, ne fa quasi una moderna, come ho detto prima, SUV, migliorando la visibilità e donando un feeling di guida che consente proprio di dominare la strada. Bene, adesso conosceremo le caratteristiche principali. Nel frattempo io saluto Gianni Oliosi di BMW Italia. Prestissimo Gianni, grazie e buona serata. A voi, grazie a tutti. A questo punto ascoltiamo le caratteristiche precise della serie 5 GT BMW. Un inedito portellone e un'inaspettata flessibilità degli interni convivono con il comfort, il piacere di una guida rialzata e la possibilità di carico. Nome: BMW 530D Gran Turismo, carrozzeria 5 porte a 5 posti, dimensioni lunghezza 5 metri, larghezza 1,90 m, peso 1960 kg, motore 6 cilindri turbo diesel, potenza 245 cavalli, trasmissione trazione posteriore, cambio automatico a 8 rapporti, prezzo da 58.151 euro. Ormai i cambi arrivano anche a 8 rapporti, incredibile. Carlo Di Giusto di Quattro Ruote, buonasera. Buonasera Roberto, buonasera a tutti gli ascoltatori. Hai avuto modo, Carlo, di farti una prima impressione al volante in attesa poi di sezionare questa vettura come fate sempre con tutti, con le rilevazioni statistiche. Ce la racconti, come va dal punto di vista giornalistico, un po' meno, diciamo, comunicativo rispetto a Gianni Oliosi che ci faceva sognare, no? Con questo viaggiare all'interno della BMW. Invece noi giornalisti cosa diciamo di questa vettura? Diciamo sostanzialmente quello che ha detto lui per quanto riguarda le caratteristiche della vettura, effettivamente è molto comoda, molto spaziosa, ti fa viaggiare bene insomma. Quello che il dottor Ogliosi non ha detto, non ha parlato diciamo del prezzo che è abbastanza impegnativo e poi non ha parlato di questa linea che fa discutere oggettivamente. Abbiamo sul nostro sito raccolto parecchi commenti negativi sulla linea di questa BMW. C'è anche da dire che i contenuti sono talmente forti che si supera anche questo primo impatto un po' così ostico e si finisce poi per apprezzarla davvero. È chiaro, è un po' come è successo ad alcune vetture, non solo BMW, quando volevano effettivamente aprire quella nicchia di cui ci parlava prima BMW Italia, per cui è probabile che non siamo ancora abituati a certe linee, è che alcune riusciranno poi a sfondare, ci sono anche case che tirano fuori prodotti che poi in realtà non si vedono mai e che non hanno successo, un po' come l'eterna sfida fra le curve e la squadratura. Detto questo, della linea ci racconti invece le impressioni proprio al volante, perché grande comodità, grande eleganza dicevi, però anche si può apprezzare per esempio la prestazione del motore o questo cambio a 8 rapporti. Sì, per quanto riguarda il cambio ti devo dire che è assolutamente riuscitissimo, i cambi marcia non si avvertono, la spaziatura avendo 8 rapporti tra una marcia e l'altra è ridotta e pertanto c'è sempre diciamo la marcia giusta, questo ti consente anche di migliorare parecchio le prestazioni. Il motore è un turbo diesel, quello che ho guidato io, da 245 cavalli, ma se la cava egregiamente in tutte le situazioni. Chiaramente. Senti, per quanto riguarda il prezzo, dicevi un po' impegnativo, a chi si rivolge esattamente, se già la serie 5 era una vettura ed è una vettura già stimata come berlina di un certo lusso, senza arrivare alla serie 7, ma per alcuni padri di famiglia, per alcune auto aziendali di alto livello, per esempio? Ma sai, è una nicchia nuova, è difficile dire chi è il cliente ideale per questa automobile. Probabilmente è quello che cerca il comfort e che cerca una versatilità, che ha uno stile di vita attivo probabilmente, perché c'è un bel bagagliaio dove caricare sacche da golf per esempio, oppure insomma tutto quello che una berlina tradizionale non ti consente di fare. Decisamente. Avrà successo secondo te in Italia? E qui ti chiedo ovviamente una valutazione personale, conoscendo però da vicino i gusti degli ascoltatori, dei lettori del vostro web. Per il fatto di essere una BMW sicuramente avrà successo, perché riescono davvero a vendere tutto e a venderlo bene e a valorizzarlo, ci credono nei prodotti che fanno e sicuramente avranno degli ottimi riscontri. Per quanto riguarda l'Italia dipende, perché il nostro è un mercato in quella categoria d'auto che segue molto le mode e quindi bisogna vedere un po' come sapranno venderla questa auto. Bene, bene, vedremo, staremo qui ad osservare e a criticare severamente, ovviamente, come sempre. Grazie per ora, Carlo Di Giusto di Quattro Ruote, a presto e buona serata. Buona serata anche a te, Roberto. Mi piace, prima di dare la linea al traffico per un attimo, ricordarvi che domani è un'altra giornata di gare, perché la MotoGP potrebbe vedere assegnato il campionato del mondo, dico potrebbe perché c'è l'eterna sfida naturalmente al vertice, sarebbe sicuramente un grande successo per Valentino Rossi. E poi il prossimo appuntamento con la Formula 1, di cui parleremo tra poco, nonostante si sia laureato campione Jenson Button, l'inglese Jenson Button, domenica è per l'1 novembre ad Abu Dhabi. Quattro ruote e dintorni. Bene, l'avevamo anticipato prima, adesso un tema davvero importante dal punto di vista proprio automobilistico ed industriale, l'elettrico. È questa la grande battaglia del momento e si prefigura come la battaglia del primo domani, visto che dagli ultimi dati che sono usciti da Innovation Circus, vi do questo aggiornamento, quindi un evento relativo al futuro e alle tecnologie che si è tenuto a Milano la settimana scorsa, uno scienziato ha detto espressamente che prendendo tutte le teorie che riguardano le riserve di idrocarburi, quindi barili di petrolio, dal 2042 al 2054 si esaurirà il petrolio. Io credo che questa sia una fase delicatissima, intanto perché il 2042, che ne pensiamo, è veramente domani, è vicinissimo, e poi perché le alternative non è che siano proprio qui, oggi, adesso, già pronte nei concessionari. Pare dunque che ci sia un certo ritardo, eppure l'elettrico si è già mosso tempo fa, addirittura si parlava di elettrico 15-20 anni fa. Lo chiediamo a Emilio Brambilla di Quattro Ruote. Caro Emilio, buonasera e bentornato. Buonasera a tutti. Che cosa combinavate voi 15-18-20 anni fa a proposito di elettrico? Ne parlavate già? Avevamo organizzato all'epoca i Gran Premi Quattro Ruote E, che erano delle gare cittadine che si erano svolte nel centro di Milano, di Torino e in altre città, proprio dedicate alle auto elettriche e solari. Poi, diciamo, in questi giorni si festeggiano i 20 anni dall'inizio delle vendite della Panda elettrica. E quindi abbiamo pensato di fare un raffronto fra questa vettura che noi abbiamo usato molto, abbiamo anche realizzato un record mondiale di velocità sulla pista di Nardò con la Panda Elettra, e abbiamo pensato di metterla a confronto con un'elettrica che debutterà tra un anno, che è in questo caso l'Opel Ampera, che è un'elettrica un po' particolare. Però diciamo, in questo momento c'è un gran fermento, come dicevi tu, tutti parlano di produrre elettriche. Ed è interessante vedere che cosa sono in grado effettivamente di fare oggi. Di farlo già oggi. Tra l'altro i gruppi francesi sono in grande rispolvero e Renault-Nissan, con questa accoppiata vincente su molti prodotti, ha annunciato davvero nel 2011-2012 auto elettriche, ma già di serie, Emilio. Infatti, proprio mentre su Quattro Ruote di ottobre facciamo questo confronto fra la Panda Elettra e l'Opel Ampera, proprio sul numero di novembre che adesso sta per arrivare in edicola, parliamo un po', ci poniamo una domanda: ma l'auto elettrica è davvero già qui, è pronta? E proprio partendo dalle dichiarazioni di Renault e Nissan, che vogliono iniziare entro un anno o due la vendita su grande scala delle auto elettriche, perché spesso si parla genericamente di auto a batteria, però un conto è vendere una Tesla Roadster da 120.000 euro, che è un magnifico giocattolo per ricchi, e ben altro è vendere delle vetture, come intende fare Renault, che si rivolgono al grande pubblico. Decisamente, però non ci hai detto come è andato questo confronto, è molto interessante. Certo, e devo dire che il salto di prestazioni da 20 anni fa ad oggi è notevolissimo. Se pensiamo che il record di velocità che avevamo fatto allora, il record mondiale riconosciuto dalla federazione, era di 74 km all'ora con la Panda Elettra per una vettura di serie, oggi si parla di velocità che raggiungono tranquillamente i 160 km all'ora. Quindi chi avesse in mente l'auto elettrica lenta, diciamo il giocattolino per andare sul campo da golf o per smuoversi solamente in città, sta sbagliando. L'auto elettrica non avrà un problema di prestazioni, semmai avrà un problema di autonomie, perché purtroppo con una ricarica le batterie si sono migliorate, ma non così tanto, e soprattutto, sempre legato alle batterie, un problema di costi. Da qui origina la grande battaglia del litio, come la chiamano, no? Per cui anche gli orientali si stanno dando da fare, perché bisogna riuscire a inserire in batterie non eccessivamente grosse una quantità buona, sufficiente di energia elettrica accumulata, che garantisca una buona autonomia e che non sia pericolosa, Emilio. Esatto, le batterie al litio ovviamente sono molto meglio rispetto alle batterie delle precedenti generazioni, non parliamo di quelle al piombo che aveva la Panda di 20 anni fa, ma anche certo, quelle di altre tipologie che erano sul mercato fino a pochi anni fa. E il fatto è che comunque un'auto elettrica ragionevolmente non farà più di 150 km con una ricarica. Quindi per chi è abituato ad oggi a una vettura convenzionale si pone un po' il problema dell'adattabilità, anche perché poi con questi 150 km di autonomia si pone il problema della costruzione delle infrastrutture, delle colonnine di ricarica in giro per le città. Infatti, anche questo sarà uno dei temi principali. Ne parleremo sicuramente, diventerà un tema sempre più caldo. Vi invito a leggere la sua inchiesta, Emilio Brambilla su Quattro Ruote. Grazie Emilio per ora e a prestissimo. Buonasera a tutti. Rimaniamo nel campo delle quattro ruote, non si può non parlare di quanto accaduto lo scorso weekend. Jenson Button, l'inglese Jenson Button, è campione del mondo 2009 di Formula 1. Una notizia che alcuni hanno snobbato perché Jenson Button non era e non è conosciutissimo, eppure ha portato alla vittoria una Brown GP del Ross Brown di Schumacheriana memoria alla prima stagione in Formula 1. Ne parliamo brevemente con Alessandro Carcano. Buonasera Alessandro. Buonasera Roberto e una buona serata a tutti gli ascoltatori. Vorrei ricordare proprio agli ascoltatori, Alessandro, che la prima volta che vedemmo in pole position alla prima gara la Brown GP nessuno ci avrebbe creduto e nella notte di preparazione al weekend la Brown GP trovò lo sponsor che era Virgin, cioè una casa automobilistica, non c'è dietro, c'è un uomo che ha rilevato una scuderia per pochi euro, dicono per pochi dollari, sulle ceneri se non sbaglio della Honda, ed è riuscito a vincere il campionato del mondo alla prima, Alessandro. È stata una sorpresa, soprattutto per questi deflettori che nel corso delle prime gare hanno dato un grandissimo vantaggio a entrambe le Brown, tanto è vero che sia Button sia Barrichello fecero delle doppiette proprio nelle prime 5-6 gare, insomma. Decisamente. Poi a Button vinse nella prima parte del campionato tantissime gare, credo 6 di seguito, poi successe qualcosa di strano, si annebbiò, in qualche modo le sue prestazioni non furono più le stesse di Barrichello, tanto da arrivare a 0 punti più volte, quindi o uscire o arrivare dietro l'ottava posizione senza prendere punti utili, per poi risollevare la testa alla fine del campionato. Sì, fece dopo appunto queste 6 vittorie sulle prime 7 gare, ottenne risultati alquanto discutibili. C'è da dire che anche le grandi tipo Ferrari e McLaren comunque si sono un po' riprese dopo un avvio a rilento del campionato, e quel Kers che era stato diciamo impiegato in modo sbagliato nella prima parte del campionato, nel senso che non aveva dato quei vantaggi che tutti ci si aspettava, poi invece è stato un qualcosa in più e i livelli si sono un attimino pareggiati, insomma, per cui una ripresa delle grandi e una sua difficoltà forse anche psicologica nel vedere che il vantaggio che aveva accumulato nelle prime gare si è lentamente assottigliato. Per la cronaca, l'ha vinta Mark Webber l'ultima gara, il Webber che è veramente in forma, sta guidando molto bene, così Sebastian Vettel, il suo compagno di squadra con cui insomma si è fatto molta competizione in scuderia, però il campionato ormai è chiuso, in realtà manca ancora un gran premio. E se Giancarlo Fisichella non riesce definitivamente a trovare il feeling con la sua vettura, un Kimi Raikkonen uscente per lasciare posto a Fernando Alonso in Ferrari invece sta facendo un'ottima fine stagione, e chiudiamo, Alessandro. Sicuramente Kimi Raikkonen, che ormai sappiamo tutti verrà sostituito da Fernando Alonso, ha fatto vedere nelle ultime gare quello di cui è capace, e mentre Fisichella, che ha sostituito un Badoer deludente, alla fine ha dimostrato di non trovare neanche lui quel feeling con le rosse che ci si sarebbe aspettato. Di conseguenza in quest'ultima gara sicuramente ci proverà a fare qualcosa di meglio, ma sarà molto difficile. 1 novembre ad Abu Dhabi, vi aspettiamo in realtà davanti alla televisione o in radio. Grazie Alessandro Carcano e a presto, buona grazie serata. Grazie a te, una buona serata a tutti. Dal 12 novembre invece fino al 15 novembre apriranno i battenti di una fiera, di un salone molto importante, si chiama ECMA, è uno dei 2-3 saloni per le moto più importanti del mondo. Ne parliamo con Fabio Cormio di Due Ruote. Caro Fabio, buonasera. Sì, buonasera, ciao Roberto. Abbiamo tante novità di cui parlare, perché sebbene mancheranno due colossi, cioè Yamaha e Honda, tante saranno le novità a questo ECMA. Tra l'altro, donne, ragazze in ascolto, attenzione, perché fra poco daremo una buona notizia per voi relativa alla serata di venerdì, se non sbaglio. Quattro ruote e dintorni. Allora, siamo in collegamento con Fabio Cormio di Due Ruote, si parla di moto, si parla del Salone dell'ECMA il 12 novembre fino al 15 a Milano. In realtà, sebbene noi siamo abituati a parlare di Tokyo a livello di auto, è in attuale svolgimento il Salone dell'Auto, di cui parleremo tra poco, ma ci sono anche le moto. Allora, per arrivare all'ECMA di Milano passerei da Tokyo, Fabio. Sì, esatto, beh, è un giro un po' lungo passare da Tokyo per arrivare a Milano, però insomma, no, la cosa importante è che a Tokyo ci sono i due colossi che mancheranno, invece a Milano mi riferisco chiaramente alla Honda e alla Yamaha. Ci sono novità importanti da trovare all'interno di quelle di tutti quei modelli dedicati al mercato domestico, cioè al mercato interno giapponese, quindi moto da 400cc eccetera, che lì hanno un senso perché ci sono delle limitazioni legali diverse. Ci sono naturalmente la Honda VFR 1200, che sarà la nuova bandiera tecnologica della casa di Tokyo, appunto, e quindi una motocicletta che va a sostituire la VFR ormai abbastanza invecchiata, il modello 800 che c'è ancora a listino. È un VFR che comunque è un brand quasi storico a sé, perché il VFR ha venduto migliaia di moto in tutto il mondo. Sì, sì, esattamente, è una moto dalle caratteristiche tecniche importanti e che in genere segna la strada poi per altri modelli in gamma. Questo qua sarà un 1200 con un motore V4 molto potente da circa 170 cavalli, e siamo riusciti a provare, in particolare è riuscito il nostro Riccardo Capacchione, che è volato a Tokyo per osservare le novità, ha provato proprio la Honda VFR 1200 e ci parla di una moto estremamente efficace, con una sella ampia, quindi un'ergonomia ben studiata, ma anche con caratteristiche tecniche di primo ordine, soprattutto quelle. Quindi sarà disponibile questa moto anche con un nuovo cambio, il DCT, cioè Dual Clutch Transmission, cioè un cambio a doppia frizione, moto che lui ha provato anche con questo cambio, che si è rivelato efficiente e preciso negli innesti, e sempre molto ben coadiuvato da questa frizione, che è dotata anche di sistema antisaltellamento. Certo, certo. Quali altre novità ci aspetteranno invece a Milano? Mancheranno quindi Honda e Yamaha, però ci saranno tutti gli altri italiani in prima fila. Sì, esattamente, solo per finire su Tokyo, purtroppo qui a Tokyo si è vista un prototipo della Super Tenere 1200, che invece non si vedrà a Milano. Ecco, quella sarebbe stata proprio bella da vedere in versione definitiva. Comunque questa moto molto attesa, che sarà un po' l'anti BMW GS, e invece per tornare sulle case italiane e per restare un po' nel genere delle moto on-off, ci saranno sicuramente la Morini, che porterà la Gran Passo, quindi la sua on-off in una versione leggermente restilizzata, e soprattutto la Ducati con la strada aperta, un on-off molto prestazionale che non avrà però le caratteristiche di versatilità della Morini. Molto bene, senti, quali altre marche vedremo in forma a Milano? Allora, il gruppo Piaggio con l'Aprilia, che presenta l'RSV 4R, quindi una versione semplificata rispetto alla Factory, non più sospensioni Hollis ma Sachs, e restano sempre il ride by wire e tre mappature della centralina, 16.000 euro contro i 20.000 della Factory. Poi la Kawasaki con la Z1000, quindi la nuda ancora più cattiva, ancora più ingobbita e cattivissima, la ZX10R, che è l'Hypersport, marchio di fabbrica, la Ninja per la famiglia delle moto Kawasaki, e poi le piccole, le KL125 di Tracker. La KTM porta invece la 690 Duke in versione R, e anche un'altra limited edition sulla base della RC8. Molto bene, grazie davvero a Fabio Cormio di Due Ruote. Fabio, l'appuntamento è per la prossima settimana, entreremo ancora di più nei dettagli per il salone, che ricordo si apre il 12 e si chiude il 15 novembre a Rho vicino a Milano. Grazie e a presto. Certo, i dettagli ce ne saranno tanti, grazie a voi e a presto Roberto. Allora, un grazie particolare a Fabio Cormio per il salone dell'EICMA, ma ci torneremo sopra la settimana prossima. Adesso occupiamoci di crisi economica e web. Se da una parte tutto il mondo dell'auto, in parte quello della moto, sta soffrendo ancora, sebbene rialzi la testa in questo fine anno, tutto sommato alcune delle attività commerciali legate al web, per esempio le compagnie dirette, invece stanno vivendo un buon presente. Chi è entrato un anno fa in questo mercato e anche pesantemente con molta pubblicità è Quixa, l'avevamo sentito nella inchiesta insieme a tutti i loro competitor sulle compagnie dirette. Ecco, dopo un anno ci è venuto in mente di chiedere a Quixa che cosa è successo, visto che hanno iniziato in un anno decisamente difficile. L'amministratore delegato è Giuseppe Dosi. Buonasera, dottor Dosi. Buonasera. Come ve la siete cavata in questo anno? Ma guardi, molto bene. Come lei ha accennato, è stato un anno difficile, è stato un mercato in contrazione, non lo è solo da questo anno, assistiamo a questa contrazione ormai da 3-4 anni, però devo dire che il nostro posizionamento distintivo nel mercato ci ha veramente aiutato molto. Voi avete puntato molto sulla comunicazione, su un servizio personalizzato, e le chiedo, il fattore prezzo è sempre la chiave di scelta per i navigatori del web per quanto riguarda le compagnie assicurative dirette? Ma guardi, sicuramente il prezzo è un prerequisito fondamentale. Chi opera nel mercato dell'auto non può fare a meno di confrontarsi con una concorrenza accesa sul prezzo. Mi sembra peraltro che dopo 15 anni le compagnie dirette come settore siano ancora relegate a sotto il 5% di quota di mercato. Quindi vuol dire che il prezzo è un prerequisito fondamentale, ma da solo non spiega completamente l'insuccesso di una compagnia sul mercato. Io credo che attorno al prezzo bisogna costruire un mondo valoriale per il cliente. Eh beh, certo, questo è molto importante. Senta, sa che i giovani sono molto attenti alle nuove forme di tecnologia, amano molto il web, ma il web avanzato, per cui social network e chi più ne ha più ne metta. La pubblicità sul web è l'unica che tira in questo momento, tutto il resto della pubblicità ha nettamente un segno negativo. Cosa ha fatto Quix per adattarsi a questa visione di cose, visto che le compagnie dirette sono definite come le più contemporanee, no? In un certo senso del mercato. Ma guardi, è vero che la pubblicità ha sofferto molto, tranne quella web, questo in generale, non è vero nel comparto delle compagnie dirette, dove sostanzialmente negli ultimi 3 anni l'investimento è cresciuto del 40%. Comunque noi annettiamo molta importanza alla pubblicità sul web, destiniamo più del 20% del nostro marketing mix proprio sul web e siamo presenti sostanzialmente in tutti i siti di informazioni con banner, siamo presenti nei principali siti di informazione, mettiamo molte energie in Google, quindi nella possibilità di essere primi nelle ricerche naturali, bene, certo, esatto, certo. Intercettare sostanzialmente i navigatori più esperti del web. Ci fa una fotografia oggettiva di Quix oggi dopo un anno, quindi chi siete riusciti a cogliere sul mercato, quanti sono i vostri clienti e se ha delle cifre, non so se calcolate il fatturato annuale o stagionale? Guardi, le posso dare le previsioni a questo punto quasi di fine anno. Siamo sostanzialmente in linea con una cinquantina di migliaia di clienti, che è oltre quello che era l'obiettivo che ci eravamo dati all'inizio dell'anno, quindi siamo molto molto soddisfatti. Mi sembra che il mercato ci stia dando ragione sicuramente di una politica combinata di prezzi ma anche di servizi attorno al prezzo, quindi grande grande soddisfazione. Bene, grazie davvero all'amministratore delegato di Quix, Giuseppe Dosi. A presto, dottor Dosi, e buona serata. Buona serata ancora. Chiudiamo adesso la trasmissione con Roberto Lovecchio di Quattro Ruote, da poco tornato da Tokyo, dove si sta svolgendo, dicevamo prima, il Salone dell'Auto. Caro Roberto, buonasera, bentornato. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Ancora una volta argomenti in primo piano, elettrico e ibrido prima di ogni cosa, ma lascio a te il commento intanto di questo salone e di quello che hai visto e che vuoi riportare ai nostri ascoltatori, Roberto. Beh, innanzitutto va detto che era un salone un po' in tono minore, questa volta con meno della metà degli espositori presenti alla scorsa edizione nel 2007, il Salone di Tokyo si tiene ogni 2 anni. Mancavano quest'anno tutte le case più importanti europee, americane e anche coreane, e quindi più che un salone internazionale sembrava un po' una rassegna locale, con i soli giapponesi in pratica a rappresentare un pochino le case di rilievo. Tra questi sicuramente la parte del leone l'hanno fatta Nissan e Toyota. Il numero uno del gruppo Renault-Nissan, Carlos Ghosn, ha esordito nella sua conferenza stampa più o meno con queste parole: la corsa all'elettrico è incominciata. E questo così dà già un pochino la misura di quello che è stata la loro proposta. Loro hanno sul salone, esposta fino al 4 di novembre, la Leaf, che è una berlina a 5 porte, 5 posti, più o meno della taglia di una Renault Megane, di una Fiat Bravo per capirsi, ed è la prima auto elettrica di massa ad arrivare sul mercato. Si potrà prenotare dalla metà del prossimo anno anche da noi in Europa, e le consegne inizieranno verso la fine del 2010. E questa sicuramente è una novità importante. Quali altre auto hai visto? Anche Toyota e anche Honda hanno presentato delle auto elettriche. L'elettrico è stato un po' il tema di questo salone. Entrambe due city car, molto piccole, più o meno della taglia di una Toyota IQ, però queste sono due concept, cioè ancora due studi, mentre le macchine vere non arriveranno prima di 2 o 3 anni. La Honda invece ha preferito puntare sull'ibrido, che è un pochino la sua carta di questo momento, dopo la Insight, che sta avendo un discreto successo anche da noi, ma che in Giappone è addirittura fra le prime macchine vendute sul mercato in generale, cioè non soltanto delle ibride ma il mercato in assoluto. Adesso sta preparando la la sua seconda carta, che è una coupé, questa volta si chiama CRZ, ne avevano presentato una cosa già nell'edizione scorsa, adesso hanno portato invece un modello quasi pronto per la produzione, loro arriveranno a febbraio con questa macchina, è una coupé piuttosto aggressiva, pare anche piuttosto performante, anch'essa nata soltanto come ibrida, cioè accoppia al classico motore termico, cioè a benzina, bene. Un'unità elettrica che agisce da supporto nelle accelerazioni, contribuendo così a ridurre i consumi. I consumi, è chiaro, con buone prestazioni tra l'altro. Molto bene, grazie davvero Roberto Lovecchio, a presto e buona serata. Buona serata a tutti. Torneremo sui saloni in giro per il mondo, perché questo è un anno particolare, avete sentito anche che cosa accadrà a Bologna al Motor Show, ridotto a soli 5 giorni e praticamente ad attività sportive. Povero mondo dell'auto, speriamo che si risollevi presto, noi siamo qui per cercare di aiutarlo. Allora, io vi ringrazio per l'attenzione, ci risentiamo sabato prossimo alle 21 puntuali qui su Radio 24, Roberto Rasì al microfono, Filippo invece alla regia, vi salutano, vi ringraziano e vi augurano soprattutto una buona guida.